24 mattino. You can't always get what you want. Bel regalo dalla regia, 16 minuti trascorsi dopo le 8, ancora Irene Zerbini al microfono. You can't always get what you want. I Rolling Stones, per commentare la tematica di questa mattina, questo eccesso di regole, regolamentazione, l'eccesso di divieti, con i protagonisti. Avremo tra poco con noi il sindaco di Sanremo, campione di divieti, lo ritraggono come Zorro, lui è fiero di questo ritratto e di questo logo. Comunque sappiatelo, se ci state andando a Sanremo, ci sono una serie di ordinanze che non vi permetteranno anche di sedervi su una panchina se avete più di 12 anni ma meno di 60, cioè tra i 13 e i 59 state molto attenti. E per dimostrare che invece appartenete alla fascia lecita dovete anche avere la carta d'identità. Poi lui ha dichiarato, ce lo ha raccontato anche ieri il Corriere della Sera, basta mutande a vista, lenzuole che ti arrivano in testa mentre passeggi, vietati i giochi sulla spiaggia, i falò, i bivacchi, le radioline, portare cani o altri animali, è vietato sostare sul bagnasciuga e anche mettere ombrelloni e sdraio dopo il tramonto. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Maurizio Zoccarato, dunque noi stavamo dando contezza della sua iperattività. Quando l'hanno eletta? Il 6 e il 7 giugno, sono entrato in comune il 10 di giugno. Quante preferenze ha avuto sindaco? Abbiamo preso il 54,7% al primo turno, quindi è andata molto bene. E cos'è che oggi è vietato fare che invece era, diciamo così, lecito prima che lei diventasse sindaco a Sanremo? Ma abbiamo semplicemente messo delle regole, secondo me, di buon gusto. Vale a dire, non è vero che non si può sedere sulle banchine di Sanremo in generale. In alcune vie di Sanremo, soprattutto in una piazza dove normalmente si spacciava droga, dove normalmente molti irregolari pensavano di poterla trasformare in un succo, abbiamo messo dei divieti affinché anche i passanti di tutte le età possano tranquillamente passeggiare senza avere paura. Ma è vero che i vigili devono chiedere la carta d'identità se qualcuno è seduto sulla panchina per capire se ha meno di 12 anni o più di 60 e dunque se è autorizzato? Qua si parla della fontana della piazza principale. La fontana della piazza principale, visto che è una fontana, ovviamente non è il salotto di casa propria. Quindi, a mio avviso, uno non può pensare che sia il canestro di giocarci a canestro con le bottiglie di birra. E poi, se c'è della gente che non si vuole alzare, allora i vigili sono autorizzati, anzi, devono chiedere la carta d'identità per vedere se hanno più di 60 anni o meno di 12. Perché meno di 12? Perché un bambino che va con la mamma a prendere il gelato è giusto anche che si chiuda un occhio. Quindi si può sedere e mangiare il gelato, o l'anziano che si vuole fermare si può fermare, ma uno dai 15 anni o dai 13 anni fino ai 60, a mio avviso, può tranquillamente fare 20 metri attraverso la strada che ci sono le panchine. Lei sa benissimo, Maurizio Zoccarato, mentre ci parla, che naturalmente queste sue ordinanze, già successo a Sanremo, ora le stiamo così esponendo a livello nazionale, susciteranno anche dei commenti. 349-238-66 per le vostre opinioni, le vostre analisi e poi per segnalarci altri divieti. Perché da quando c'è questa possibilità per i sindaci di emettere queste ordinanze, naturalmente ce ne sono state molte e stravaganti. C'è chi corregge poi l'articolo della stampa, si chiama Battigia non bagnasciuga, ora non ci metteremo via sms a percorrere questo tipo di problematiche linguistiche. Vorremmo sapere nel contenuto se vi siete imbattuti o addirittura se siete stati multati, non so, perché vi siete scambiati un bacio in macchina a Eboli, si dice automobile, mi dirà qualcuno che okay. Un bacio in automobile a Eboli, perché quello è un altro degli atteggiamenti che è stato vietato da queste ordinanze. Senta sindaco, ma lei quanti vigili ha a disposizione per poi controllare che queste ordinanze? Abbiamo un centinaio di vigili, ci sono un commissariato con una novantina di agenti, in più ci sono anche i carabinieri, c'è la guardia di finanza. Ecco, noi stiamo facendo un ottimo lavoro, anche grazie alle forze dell'ordine, al prefetto, ma quello che io tendo a sottolineare, noi non è che qui siamo diventati la città dei divieti, no, qua siamo diventati la città delle regole, che è un po' diverso. L'altro giorno un turista pensava che nella via principale, una delle vie principali, Corso Garibaldi, un bellissimo platano fosse un Vespasiano, giustamente due nostre vigilesse gli hanno fatto 300 euro di multa. Beh, ma questo l'avrebbero fatto anche prima delle sue ordinanze, immagino. Sì, però con un po' più di attenzione, anche quando noi diciamo non bisogna attaccare gli adesivi ai pali della luce, non bisogna buttare i chewing gum per terra. Perché? Perché poi noi tutti, anche lei, anch'io, quando andiamo per la strada, soprattutto d'estate, che mettiamo il piede su una gomma da masticare, che ce la riportiamo in macchina, a casa, tutto, nessuno è contento. E tutti pensiamo, chi è stato quel maleducato che ha lanciato la chewing gum per terra? Ecco, se noi vediamo lanciare la chewing gum per terra, facciamo semplicemente 100 euro di multa. Così la prossima volta si ricorderà che al posto di fare così, aspetta 10 metri e la butta nel cestino della spazzatura. Cioè lei pensa di poter, come dire, modellare il comportamento, cioè insegnare l'educazione ai cittadini e turisti con questa, con queste ordinanze? Ma io, guardi, quando vado a casa di qualcheduno, normalmente tendo a entrare in casa ponendomi le scarpe sul tappettino davanti a casa. Entro dentro a casa e cerco di essere il più educato possibile. Quando sono a casa mia faccio altrettanto, addirittura le scarpe me le tolgo. E io dico che quando andiamo in una città, che sia Sanremo, che sia un'altra città, bisogna avere educazione. Quando si mette la macchina in divieto, può essere corretto se non ci sono i parcheggi, ma se a 30 o 50 metri c'è un parcheggio con del posto libero, io non vedo perché la macchina non bisogna metterla dentro il parcheggio. Ma e non sono sempre situazioni che potrebbero essere risolte semplicemente con l'educazione, il senso di responsabilità dei singoli coinvolti? Ah, ma praticamente tutte queste ordinanze servono soprattutto a dare un segnale di regole, e soprattutto a dire ai cittadini, guardate che se voi non siete educati, noi facciamo in modo che lo diventate. Grazie. Okay. Grazie sindaco, rimanga con noi. Insieme a noi c'è Piero Ostellino, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Ex direttore del Corriere della Sera, uno degli editorialisti più noti del giornalismo italiano, e Piero Ostellino si è occupato anche in un libro di questa, diciamo così, ipertrofia, queste iperregole, questa tendenza al sanzionare, alle mettere divieti e regole. E ci piacerebbe sapere quali sono le sue riflessioni sentendo queste ultime ordinanze del sindaco di Sanremo, oggi nostro ospite. Ma le mie riflessioni sono che sono il frutto, innanzitutto dal punto di vista culturale, di una mentalità, di una cultura razionalistica, cioè si pensa di poter razionalizzare e disciplinare tutti i comportamenti dell'uomo in modo che l'uomo diventi buono, educato, eccetera. Cioè è una mentalità che nasce forse addirittura dalla Rivoluzione francese, cioè dall'illuminismo francese. Se poi invece vogliamo metterla un pochino più dura, diciamo che è una mentalità tutto sommato molto autoritaria e totalitaria, cioè non si può sperare di far diventare l'uomo buono attraverso le norme, cioè di cambiare, come direbbe Immanuel Kant, il legno storto dell'umanità, di raddrizzare il legno storto dell'umanità. E quindi questa mentalità è una mentalità tipicamente totalitaria, cioè nei paesi totalitari tutto è proibito tranne ciò che è espressamente consentito. Mentre nelle società libere tutto è consentito tranne ciò che è espressamente vietato. Senta, Piero Ostellino, molto alla spontaneità, alla buona educazione, alla crescita civile dei cittadini, senza bisogno che lo Stato o il sindaco di Sanremo o di qualsiasi altra città diventi una specie di papà molto severo che dispensa i voti sul bene e sul male, sul buono e sul cattivo del comportamento dei cittadini. Cioè io sono personalmente convinto che una società libera è una società spontanea, dove ciascuno poi, come dire, si regola di conseguenza perché la pressione sociale, la presenza degli altri, gli impone di comportarsi in un certo modo. Cioè quello di parcheggiare in un posto vietato, beh, questa è una violazione della norma, ma è anche un danno che si arreca al prossimo, e quindi quando si arreca un danno al prossimo non è che si eserciti una libertà, ma significa semplicemente produrre un danno agli altri. Ecco, questo allora è logico che venga regolamentato. Senta, Piero Ostellino, si possa sedere su un certo posto nella previsione che poi io butterò il gelato o la lattina dentro la fontana, beh, questo mi sembra veramente francamente eccessivo. Senta, le segnalo già un'annotazione che arriva via SMS da un ascoltatore, e che così l'ha ditta come un po' troppo ottimista verso il genere umano, visto che questo senso di responsabilità, di educazione non c'è, qual è l'alternativa? Le chiedono. Ah, beh, Hitler Hitler e Stalin, le alternative sono quelle, cioè l'eccesso di ottimismo produce Hitler e Stalin nel caso peggiore, o produce queste anomalie nel caso migliore. Cioè, in altri termini, non si può prevedere sempre il cattivo comportamento e evitare certi comportamenti in previsione che diventino devianti, perché altrimenti si finisce nei lager, tutto lì. Sindaco di Sanremo, lei si sente un po' papà della sua popolazione? No. Cioè, sente di essere un pochino paternalista con questa pretesa di modellare il comportamento? No, intanto io saluto il direttore. Buongiorno. E buongiorno a lei. Io penso che nessuno voglia farne Hitler né Stalin, però è anche vero che io, guardi, in campagna elettorale in 100 giorni ho fatto 677 incontri con la popolazione di Sanremo, e quello che mi hanno chiesto era questo. Infatti oggi vado in giro per la strada, la gente viene, ci fa i complimenti, è contenta, e le spiego anche, non è che l'abbiamo messa in tutte le fontane di Sanremo, noi l'abbiamo messa in una fontana proprio perché durante il giorno moltissime persone pensavano che quella fontana fosse una doccia pubblica, oppure si ci potesse buttare dentro la spazzatura. Perché? Perché se uno vede una fontana sporca, a mio avviso, con dentro già delle bottiglie, o noi ci mettiamo una persona che continua a pulire quella fontana, oppure uno si sente, come ha detto prima lei, se non dice, ha la pressione autorizzato a far male le cose. Sentiamo la risposta di Piero Stellino. Io sono dell'opinione che se uno si siede sulla fontana e butta dentro alla fontana un barattolo di marmellato, che diavolo sia, allora debba essere sanzionato, perché in quel momento commette, come dire, un'infrazione. Ma non gli si può impedire di sedersi nella previsione che butti il barattolo. Cioè, in altri termini, si sanziona il comportamento deviante, non si prevede il comportamento deviante, e quindi impedendo addirittura di averlo. Cioè, a me sembra che sia un po' un atteggiamento di tipo clericale e bigotto. Cioè, la Chiesa stessa, la religione stessa, ammette il libero arbitrio e quindi ammette la possibilità che uno commetta peccato, e se commette peccato poi va all'inferno. Però la Chiesa, dove può comandare, impedisce di commettere peccato. Cioè, ad esempio, non vuole che si divorzi perché considera il divorzio un peccato. Allora a questo punto scompare persino il libero arbitrio. Cioè si diventa clericali, si diventa teocratici, cioè si diventa totalitari, si diventa autoritari. Cioè bisogna lasciare all'uomo la possibilità del comportamento deviante e poi si sanziona il comportamento deviante. Ma non si può proibire tutto nella previsione che l'uomo si comporti male, perché allora a questo punto anche chi si comporta bene non potrà più sedersi lì, perché il sindaco pensa che potrebbe comportarsi male. Cioè, sindaco, tra pochissimo... è la differenza tra una mentalità... Tra pochissimo le nostre conclusioni, e vorrei ricordare, tra l'altro, ce lo segnala un ascoltatore, ma si è guadagnato anche questo i titoli della stampa nazionale, che a Brescia una donna marocchina di 83 anni è stata multata perché si è seduta per riprendere fiato ai piedi di un monumento, sui gradini di un monumento per la precisione. È stata multata con 100 euro perché anche lì l'ordinanza aveva appena posto un divieto, e poi c'è stata una colletta della popolazione per aiutare questa donna a pagare questi 100 euro di multa. Ci si aspetta o ci si immagina che questo tipo di esuberanza creativa, o comunque devo ricordare per correttezza che moltissimi ascoltatori segnalano invece di essere d'accordo con il sindaco, ma che questo tipo di inclinazione porterà anche a una questione di legittimità costituzionale. Io credo che verrà sollevata se un'ordinanza vieta qualcosa che però non ricalca i divieti delle leggi nazionali. 32 minuti dopo le 8 e si trovano in contrapposizione due visioni che con grande serenità si stanno scambiando delle opinioni. Da una parte c'è Maurizio Zoccarato, il sindaco di Sanremo, che incarna l'esigenza di regolamentare tutto, molti comportamenti, così da evitare problemi che in futuro si potrebbero verificare rispetto al decoro, come ci ha appena detto. E dall'altra parte Piero Ostellino, editorialista, ex direttore del Corriere della Sera, sera, che invece invoca il senso di responsabilità e il libero arbitrio. Vogliamo arrivare alle conclusioni chiedendoci adesso, scusate se vi porto un attimo su una strada leggermente diversa, sì, ma con queste ordinanze che poi vengono da amministrazioni locali non si rischia di cozzare con dei divieti di leggi nazionali, per cui qualcuno multato sulla base di un'ordinanza municipale potrebbe far ricorso dicendo questo divieto non esiste a Taggia o a Ospedaletti, cioè quelle località appena dopo Sanremo, per cui crea una disparità di trattamento tra cittadini e quindi io lo impugno in qualche modo. Stellino. Beh, guarda, io mi ricordo, io sono vissuto in Unione Sovietica, nella Costituzione Sovietica c'era scritto praticamente che c'erano tutte le libertà di cui gode il cittadino in uno Stato libero come il nostro, salvo il fatto che i comportamenti del cittadino dovevano concorrere alla edificazione del socialismo. Quindi era sufficiente che un magistrato decidesse che un romanzo non concorreva all'edificazione del socialismo, il romanziere finiva nel lager e il romanzo veniva bruciato. Da noi c'è più o meno la stessa cosa, anche nella nostra Costituzione ci sono alcune astrazioni di tipo ideologico che si chiamano utilità sociale, bene comune, progresso sociale e via di questo passo. Cioè i comportamenti individuali, le libertà individuali vengono condizionati, sono condizionati da questa sorta di edificazione del socialismo nostrano. Beh, secondo me succede la stessa cosa in Italia, cioè dal punto di vista della stretta legalità probabilmente ciò è consentito. Ma questo è contrario alla legittimità, cioè alle libertà individuali. L'uomo deve essere sanzionato quando commette un reato, non prima. Cioè non si può sanzionare l'uomo prima, cioè togliergli le libertà nella previsione che si comporti male. E questo non solo sarebbe incostituzionale, ma sarebbe tipico di uno Stato autoritario. Che poi i cittadini siano d'accordo, questo lo posso anche capire per due ragioni. La prima, perché quando vedono che uno butta la lattina nella fontana, ovviamente giustamente si indignano e vorrebbero che il magistrato, il vigile e il magistrato condannassero chi intervenisse, ed è giusto, questo deve essere condannato, ma che quello non possa sedersi sulla fontana in previsione che butti la lattina, questa è una mentalità da sudditi, cioè si vuole essere sudditi, si vuole vivere in un paese dove tutto è vietato perché così viviamo tranquilli e felici. No, questo è semplicemente rinunciare alle nostre libertà, tutto lì. Maurizio Zoccarato, sindaco, dunque lei non trova che forse alla ricerca di questa sicurezza e questo decoro stia un po' chiedendo ai suoi cittadini, a quelli anche che l'hanno votato col 54,3%, e noi rispettiamo naturalmente la sua rappresentatività, di rinunciare alla propria individualità, alla propria cittadinanza? Ma intanto io penso che se oggi dovessimo andare a votare dal rapporto col marciapiede la differenza sarebbe ancora più ampia, ma quello che io dico è che noi mettiamo semplicemente delle regole, facciamo rispettare delle regole, nessuno vuole togliere la libertà a nessuno, e oggi a Sanremo ci sta meglio che due mesi fa, perché la città è più pulita, è più ordinata, la gente è contenta, a me l'importante è che i miei cittadini siano contenti. Quando i miei concittadini sono contenti, io sono contento. Io devo rendere conto ai miei concittadini, non devo mettermi a pensare di diventare né Hitler né Stalin, anzi tutt'altro, e queste persone qui non sono neanche da nominare. Io quello che dico è che a nessuno piace essere sudditi, secondo me. A tutti piace stare in una società dove ci sono delle regole e dove le regole vanno fatte rispettare. È quello che vorrei fare io. Quindi io penso che non mi paragono a Ospedaletti, non mi paragono ad Arma di Taggia e nessun'altra città. Sanremo è Sanremo, è una grande città, è una bella città, io cerco di renderla ancora più bella. E poi se tra 5 anni avrò fallito vuol dire che con i miei concittadini mi manderanno a casa, se avrò fatto bene vuol dire che rimarrò a fare il sindaco di Sanremo. Sindaco, grazie per queste riflessioni, naturalmente si potrebbe parlare per ore di questo tipo di principi che ispirano e alcune ordinanze di amministrazioni e naturalmente la reazione di cittadini o di chi pensa a livello anche filosofico di fronte a un divieto, di fronte a una mancanza di decoro. Io vorrei ricordare tra l'altro il libro di Piero Ostellino, Lo Stato Canaglia, come la cattiva politica continua a soffocare l'Italia, e lei dice, Ostellino, che è proprio questo eccesso di legislazione, questa tendenza a iperlegiferare che favorisce la corruzione. In che modo, brevemente? Ma guardi, io le faccio un esempio concreto, cioè un industriale italiano in una regione tra l'altro molto civile come il Veneto decide di dismettere la produzione di certi beni che faceva nel suo stabilimento e vuole trasformare lo stabilimento in un residence, cioè in un complesso residenziale. Questo avviene 11 anni fa, chiede i permessi, ci mettono 11 anni a dargli questi permessi, cioè per esercitare quello che è un suo diritto. Se lui in questi 11 anni avesse pagato una tangente, probabilmente non avrebbe aspettato 11 anni. Cioè l'eccesso di regolamentazione induce il cittadino a pagare la tangente per esercitare un proprio diritto. Ora, la Francia e la Germania hanno 9-10 mila leggi, noi ne abbiamo 150 mila. Beh, evidentemente c'è qualche cosa che non va nel nostro paese. Una bella cura dimagrante allo Stato e forse si riuscirebbe anche moralmente a cogliere maggiori obiettivi. Grazie per questa riflessione a Piero Stellino, ex direttore del Corriere della Sera, editorialista. E grazie naturalmente al sindaco Maurizio Zoccarato, sindaco di Sanremo. Sanremo ha una rivalità storica con la città di Genova e quasi per caso oggi ci troviamo a percorrerla, anzi c'è una situazione antitetica, perché il sindaco di Genova, viceversa, è alle prese con l'aggirare delle regole, anche se è una lettura un po' riduttiva di quanto Marta Vincenzi, sindaco di Genova, sta cercando di fare. Sta studiando un regolamento per tutelare le donne irregolari in stato di gravidanza, soprattutto i loro neonati, e la registrazione all'anagrafe senza che la madre rischi la deportazione o, peggio ancora, non si presenti proprio per timore di venire deportata. Come? Lo chiediamo alla diretta interessata. Benvenuta, sindaco, buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa sta succedendo a Genova? Ma a Genova, come credo in tutte le altre città, sta succedendo che i vuoti della legge, la legge che ha consegnato la clandestinità a un reato, cominciano a diventare evidenti quando ci si pone il problema di come un'amministrazione comunale debba interpretare, trasformare in azioni amministrative quanto previsto dalle nuove norme. Veniamo al caso che stiamo discutendo. I bambini fantasma, qualcuno li ha nominati. Chi sono questi bambini fantasma? Sono, o potrebbero essere, ci auguriamo che non ce ne siano, quei bambini che potenzialmente potrebbero nascere dalla paura delle denunce e delle espulsioni. I clandestini o i sans-papiers, come si chiamano nel resto d'Europa, sono oggi abbastanza terrorizzati dalla possibilità di essere espulsi, e quindi una donna che va a partorire è una donna che deve dichiarare la nascita del proprio figlio all'anagrafe. Dichiarando questo, dichiara se stessa, cioè la propria clandestinità. Questa preoccupazione, la preoccupazione cioè che passati i 10 giorni che consentono a qualsiasi donna che partorisce di avere un permesso di soggiorno temporaneo, scattino le denunce e le espulsioni. Quindi, e dunque a Genova cosa avete deciso di fare? Noi stiamo preparando, poi sarà a settembre il Consiglio Comunale a doverlo ratificare, come giunta stiamo preparando un regolamento che consenta ai medici, ma anche all'ostetrica, perché immaginiamo che ci sarà un incremento di parti in casa, di dichiarare la nascita senza che i genitori, anche se clandestini, siano costretti a presentarsi. E quindi, cioè, sarà il medico a dichiarare nato questo bambino figlio di? Figlio di, nome e cognome di quanti, che però non hanno più l'obbligo di recarsi direttamente all'anagrafe, perché questo farebbe sì che l'ufficiale dell'anagrafe dovesse prendere in considerazione la loro clandestinità e quindi procedere. Ma in che modo il medico, che è un pubblico ufficiale, può fare una dichiarazione di questo genere esimendosi poi da rispondere per esempio a domande successive? Sì, noi riteniamo di sì che questo sia possibile, e questo è quanto proponiamo nel regolamento e, per quello che mi riguarda, quanto proporrò anche agli altri comuni italiani, se altri sindaci hanno già pensato la stessa cosa sarò lieta di poterlo confrontare, altrimenti io vorrei proprio proporlo all'ANCI se non altro, perché io ho un'altra preoccupazione. Spieghi cos'è l'ANCI, sindaco. Fatto sindaco. Esatto, sindaco, spieghi cos'è l'ANCI per cortesia. L'ANCI è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che a ottobre celebra tra l'altro il suo congresso, e dove in quella sede lei proporrà, proprio perché ci sia, sì, non ci siano sperequazioni e diversità di trattamento, di adottare questa misura. Abbiamo un avvocato con noi, si chiama Masha Salvatore, avvocato dell'ufficio legale stranieri in Italia, molta competenza su queste norme che regolano la permanenza e anche la denuncia di nascite di bambini da donne irregolari. Secondo lei è una via percorribile, avvocato? Buongiorno. Salve, buongiorno a tutti. E dunque, il problema sta nel fatto che il pacchetto sicurezza e l'altra normativa che è stata fatta, diciamo, in questo anno ha comportato da una parte delle affermazioni di principio di carattere generale, quindi a livello nazionale, però poi è stata data molta autonomia ai sindaci e ai prefetti nella regolamentazione di alcune situazioni, diciamo, di competenza sindacale o del prefetto, per cui verranno sicuramente dati dei correttivi da parte appunto dei sindaci o dei prefetti, a volte in senso più restrittivo, a volte in senso più elastico, per poter ovviare a degli effetti irreversibili di questa normativa. Ma per esempio il caso pratico che le ha sottoposto il sindaco Marta Vincenzi, sindaco di Genova, cioè la possibilità per i medici di denunciare la nascita di bimbi da donne che non hanno un permesso di soggiorno senza che i genitori siano costretti a presentarsi fisicamente. Ecco, lei vede questa strada percorribile? Se viene regolamentata, perché no, assolutamente, cioè, se ci sono disposizioni, e poi giusto come ha detto anche il sindaco di Genova, se poi viene un'iniziativa a livello non solo di territoriale per quanto riguarda Genova, ma è un'iniziativa magari estesa a tutti i comuni, potrebbe essere soprattutto un buonissimo correttivo al fatto di ovviare i medici alla denuncia di cittadine straniere che sono che essendo irregolari, quindi commettono dall'8 agosto un reato che è quello appunto di clandestinità, e che dovrebbero... In Italia, giusto? In Italia, sì. È un unicum. E diciamo che in Italia il Senato proprio ha commissionato un rapporto per capire in Europa quali sono gli stati che comunque adottano questo tipo di figura, e comunque non siamo gli unici, ma siamo tra i pochi. Perché in Francia, in Germania dal 2008, in Francia da parecchi anni più là, comunque sono gli unici tre stati che prevedono il reato di immigrazione clandestina. In tutti gli altri stati dell'Unione Europea questo reato non è assolutamente, cioè l'essere immigrato clandestino, cioè non avere il permesso di soggiorno o averlo scaduto e rimanere nel territorio dello Stato, non è assolutamente un tipo di reato. E chissà se i medici poi saranno disponibili per questo tipo, naturalmente, di dichiarazione sostitutiva. Addirittura è possibile, questa è la proposta del sindaco di Genova, anche la dichiarazione dell'ostetrica. 349-238-6666, cominciamo con un numero, è quello degli SMS, se avete qualcosa da aggiungere. Ci segnala Ivan da Bergamo che il Ministero ha chiarito che alla registrazione di nascita non serve esibire il permesso di soggiorno. Tra l'altro i medici ospedalieri non dovrebbero denunciare i pazienti privi di documenti, però sembra che ci sia una situazione di terrore tra chi è irregolare, per cui questa situazione di paura comunque di venire denunciati potrebbe, questo è il rischio, portare a dei parti in casa, dei parti tra l'altro non seguiti da medici, e all'esistenza sul territorio di bambini fantasma che una volta nati avrebbero difficoltà anche a accedere agli asili, alle vaccinazioni, quasi non esisterebbero. Cosa vi ha spinto, Vincenzi, a pensare di intraprendere questa strada, sindaco di Genova? Mi scusi, la sento pochissimo. La domanda è cosa mi ha spinto? Sì, cioè avete avuto segnalazioni pratiche? Cioè è già successo? Da 2 anni sto cercando di portare un'attenzione particolare al tema delle nascite, perché la mia è una città dove mi piacerebbe che il diritto, il tema dei diritti riguardasse soprattutto i bambini, l'infanzia, e uscisse un po' dalla retorica sterile a volte con cui si parla in Italia delle problematiche della famiglia. Dunque l'attenzione ai piccoli, per quello che mi riguarda, è un'attenzione costante, ma poi l'incontro con donne extracomunitarie mi ha portato a, insomma, ad avere più consapevolezza anche dei livelli di paure, di preoccupazioni che loro hanno e che questa legge ha enfatizzato. Avvocato Salvatore Mascia dell'Ufficio Legale di Stranieri in Italia, secondo lei c'è questo rischio che si spinga nella clandestinità anche la donna in stato si spinga, diciamo così, nella clandestinità anche perfino al momento del parto, una donna che abbia il timore poi di essere portata al confine o rispedita a casa? Esiste oggi un'esenzione per chi deve partorire, nel senso che c'è un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi per colei che è in una situazione di gravidanza e poi dà alla luce un figlio sul territorio italiano. Ma questi 6 mesi non bastano, ci chiede un ascoltatore, a garantire che la donna si farà viva presso un ospedale, chiederà assistenza anche sanitaria per sé e per il neonato? Allora, dunque, infatti, la prima premessa è che la donna in stato di gravidanza non può essere espulsa dal territorio italiano ed ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o per gravidanza. Ah, quindi solo per cure mediche? Sì, o cosiddetto per cure mediche o per gravidanza. È un permesso di soggiorno legato allo stato di gravidanza e viene rinnovato fino a 6 mesi di età del bimbo. Questo permesso di soggiorno deve essere esteso non solo alla donna in gravidanza, ma anche al marito della donna con lei convivente. Questo è un principio assolutamente... Marito o compagno? O no, marito, bisogno? Ah, deve essere proprio un matrimonio. Convivente. Quindi una coppia di irregolari possono, una coppia di moglie e marito, quindi due coniugi, possono avere questo permesso di soggiorno per cure mediche. Ovvio, è un permesso di soggiorno che non permette di lavorare, non permette di allontanarsi dal territorio italiano, perché il presupposto è proprio la necessità, lo stato della donna, insomma, di salute, comporta per lo Stato l'obbligo di rilasciare questo permesso. Io però volevo dire una cosa rispetto al discorso della... Quindi la donna in teoria che ha un permesso di soggiorno per gravidanza può recarsi tranquillamente in ospedale, non è irregolare, quindi non si pone il problema della denuncia del medici dall'autorità competente per quanto riguarda, insomma, il reato di clandestinità. Però io non sono d'accordo su quel messaggio che è stato inviato per quanto riguarda il discorso che non c'è problema per la registrazione dei figli, perché in teoria la legge 94 del 2009, che è proprio il pacchetto sicurezza, prevede una norma che, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari. Perché si dice che per tutte le registrazioni, gli atti dello stato d'ufficiale, dello stato civile, è obbligatorio esibire il titolo di soggiorno. Per questa ragione si sono allertati e si sono posti vari problemi i diversi comuni. Quindi, stando alla norma così come è scritta, potrebbe assolutamente esserci questo problema. E se fosse interpretata in maniera restrittiva. E per questo il sindaco di Genova, Marta Vincenzi, sta studiando questo regolamento. Infatti, per tutelare le donne irregolari che siano in stato di gravidanza e naturalmente i loro neonati. Lo proporrà, abbiamo sentito, a ottobre al congresso dell'ANCI, quindi la ringraziamo per questo contributo di civiltà e di tutela di bambini che nascono sul territorio italiano e che altrove, solo per il semplice fatto di essere nati sul territorio, sarebbero automaticamente cittadini. In Italia non è così, ma potrebbero avere addirittura problemi a 18 anni, una volta raggiunta la maggiore età, anche a vedersi riconosciuto il diritto alla richiesta di cittadinanza, proprio per questo vizio d'origine, proprio per questa mancata registrazione alla nascita. Grazie, sindaco. sindaco di Genova, ci ha già lasciato. Buongiorno. Noi vorremmo ora discutere di riconoscimento dei titoli accademici acquisiti all'estero. Perché? Perché sulla Gazzetta Ufficiale di ieri c'era un decreto personale dedicato alla signora Tiziana Bazzacco, una cittadina italiana nata ad Asolo, in provincia di Treviso, che dopo lunghi mesi di pazienza, lunghi impicci burocratici, è riuscita finalmente a ottenere il riconoscimento dei titoli. Ci ha segnalato: non è stato facile, ho speso un sacco di soldi per marche da bollo, traduzioni, vidimazioni in tribunale, autentificazione delle coppie. Ho atteso mesi per ricevere risposta di semplice richiesta di ulteriori prove del mio effettivo studio nel Regno Unito, già documentato da diploma nazionale inglese. Un iter decisamente inutile, uno sperpero di carte, soldi e tempo da far rabbrividire. Ci segnale però è al lavoro finalmente, fa la parrucchiera e per vedersi riconosciuta questo titolo ha dovuto investire insomma un paio di stipendi per poter esercitare in Italia. Questa è una cittadina italiana. È un problema invece molto sentito anche da chi arriva dall'estero con dei titoli acquisiti all'estero. E per far sì che questa lungaggine burocratica non leda non solo i diritti degli individui, ma addirittura la possibilità delle imprese, delle aziende di avere accesso ai migliori cervelli, c'è un'iniziativa particolare del Comune di Milano e ce la spiega l'assessore al lavoro Andrea Mascaretti. Buongiorno assessore. Buongiorno. E dunque a Milano cosa si è deciso di fare? Beh, dunque a Milano c'è il problema del riconoscimento dei titoli. Ci sono molti immigrati stranieri che posseggono i titoli e non sanno esattamente se li possono impiegare all'interno di aziende oppure anche semplicemente proseguire all'interno dell'università per l'acquisizione di un titolo accademico. Così abbiamo attivato questo sportello per il riconoscimento e la comparabilità dei titoli di studio esteri. È uno sportello virtuale al quale si può accedere tramite email del Comune di Milano e dà una risposta in mediamente da 1 a 3 giorni, si può avere una risposta... Tempi molto ridotti dunque. Tempi molto ridotti con verifiche molto importanti, nel senso questo vale per il singolo cittadino come vale per l'azienda che deve assumere un cittadino straniero ad esempio che dichiara di avere un certo titolo. La verifica avviene prima di tutto sull'università, quindi diciamo se l'università che dovrebbe aver rilasciato il titolo effettivamente esiste in qualsiasi parte del mondo. Se questo cittadino straniero ha frequentato effettivamente quel corso universitario e ha acquisito il titolo e poi alla fine l'equipollenza, cioè se quel titolo in Italia è riconosciuto. Può essere considerato equivalente. Esatto. E quindi lei ci faccia qualche esempio, visto che avete questo sportello, quindi siete già sul territorio, da quali nazioni e per quali materie o settori specifici in genere avete le maggiori richieste in termini numerici? Le do qualche dato. Intanto le richieste che ci sono pervenute ad ora, soltanto nella prima fase sperimentale, sono circa 400 richieste, 398 per l'esattezza. Le persone che l'hanno fatto richiesta arrivano da 55 differenti paesi. Il 54% delle persone che hanno fatto richiesta è di provenienza europea, il 27% dalle Americhe, il 12% dall'Africa e il 7% dall'Asia. Il primo paese, cioè il numero maggiore di richiedenti, sono i rumeni con 21 richieste, poi il Perù, l'Ucraina, la Moldavia, l'Italia, il Brasile, il Marocco e via via anche altri paesi europei come il Regno Unito, la Svizzera, la Polonia, la Spagna e la Germania. È chiaro che esistono degli accordi bilaterali con i singoli stati e naturalmente ci sono delle possibilità di riconoscimento automatico in alcuni casi per alcuni titoli proprio in base agli accordi stipulati sui singoli stati, ma in generale c'è un'analisi del percorso e dei singoli casi. Io la ringrazio moltissimo per questa segnalazione, assessore. Ringrazio l'avvocato Salvatore Mascia dell'Ufficio Legale Stranieri in Italia, ringrazio voi che ci avete seguito. Ritorneremo domani mattina alle 7:15 con la nostra intervista a un corrispondente straniero per capire come ci vedono gli altri in base agli articoli pubblicati sull'Italia in altri giornali o ai pezzi mandati in onda da televisioni e radio. Tra pochissimo, 9 in punto, la versione di Oscar, si parlerà invece di Ora di Religione. Da Irene Zerbini, buona giornata.